Dai fratelli Mercier, il delitto del giorno era stato commentato all'inizio della mattinata, quando i cinque compagni pellettieri erano arrivati uno dopo l'altro al laboratorio, ma né più né meno di quelli della settimana o dei mesi precedenti. Un po' meno, magari, visto che i protagonisti del dramma erano doppiamente estranei a tutti. Solo Levesque aveva letto i grossi titoli dei giornali, mentre gli altri avevano semplicemente sentito gli strilloni. Della sua lettura ricordava in particolare che il fatto era accaduto in Rue Racine. Levesque accolse Dubois, che abitava vicino, con un «Allora si tranciano le gole dalle tue parti?» «Come se non potessero farlo a casa loro», aveva risposto Dubois. Elia Gutmann era arrivato poco dopo, quando già stavano parlando d'altro. Aveva letto il giornale e si sentì sollevato a non dover spiegare cose di cui gli altri non avevano l'aria di essere curiosi. Del resto, non lo erano mai, non lo erano mai stati, e Lia gliene era grato. Dal giorno in cui era entrato dai fratelli Mercier, li aveva abituati al suo lavoro silenzioso, alle sue domande su certe parole o alle sue richieste di spiegazioni quando voleva ridere con loro di una battuta di cui gli era sfuggito il senso. Non lo chiamavano Elia né Gutmann, ma Lilic, unico affettuoso riferimento alle sue lontane origini, forse inconsciamente anche a Vladimir Illich, il cui folgorante destino non era peraltro in cima ai pensieri degli operai della ditta Fratelli Mercier. I fratelli Mercier non offrivano mai il destro di far vibrare la loro corda rivoluzionaria. Erano, come suol dirsi, dei buoni padroni, buon sangue non mente. A metà del secolo scorso il nonno Fabien Mercier aveva lasciato Cahors a piedi con gli zoccoli e rotolando una botte. E siccome lui e la botte erano arrivati indenni a Parigi, ciò stava a dimostrare due cose: che il nonno Fabien era coraggioso e la botte resistente. Persino con il suo francese balbettante, Elia poteva recitare quella frase a memoria e senza errori. Tante erano le volte che l'aveva sentita in bocca a Paul Mercier. Dalle botti Fabien era passato rapidamente ai bauli di legno, poi dai bauli di legno ai bauli di cuoio. Il figlio Adrien aveva ripreso i bauli di cuoio, aveva lasciato la botteguccia della Rue Papin e si era insediato con un operaio e un apprendista al primo piano di un vecchio palazzetto, praticamente all'angolo della Rue Blondel e della Rue Saint-Martin. Dai bauli di cuoio era passato alle valigie, agli astucci da toilette e alle borse per signora. I figli di Adrien, Paul e Julien erano diventati i fratelli Mercier. Avevano sei operai specializzati e loro personalmente non toccavano più il cuoio. E se il vasto laboratorio che si trovava a destra del pianerottolo odorava della pelle di tutti gli animali dell'universo, di grasso, di lana e di colla, l'ufficio di Paul Mercier a sinistra del pianerottolo olezzava di pepe e di sandalo. Accanto all'imponente scrivania e a due poltrone di mogano, sulla moquette rosso scuro era posato un baule di legno chiaro con le guarnizioni di ottone. Dato che stava aperto, se ne poteva vedere l'interno di un bruno rosato e i due odori mescolati parlavano di viaggi lontani. Il baule, eseguito dall'avo su ordinazione e verosimilmente dimenticato o mai pagato da qualche capitano di vascello della Marina Imperiale, distratto o morto in mare, era lì per ricordare ai sellai dei quartieri alti che venivano a discutere le loro ordinazioni dai fratelli Mercier che prima di usare Waterman con pennino retrattile, nella famiglia Mercier si era lavorato con le proprie mani. Chi si vedeva di rado era Julien Mercier, il quale si occupava degli acquisti di pelli in tutta la Francia e addirittura in Europa, ma ogni volta che passava da Parigi cominciava col rinchiudersi per qualche ora in ufficio insieme al fratello. Poi, verso la fine del pomeriggio, lo vedevano comparire in laboratorio con tre bottiglie di Cahors in mano. C'era una riserva sempre rinnovata nella cantina del palazzetto. Veniva a brindare con i compagni, palpava le grandi pelli appese ai chiodi, prendeva in mano un nuovo modello di lavorazione, esaminava gli schizzi delle ordinazioni, beveva un ultimo bicchiere e dichiarava gravemente: «E ora porto Pop al circolo», il che scatenava enormi risate in tutto il laboratorio. La prima volta che aveva sentito la battuta del signor Julien, Elia aveva riso con tutti gli altri, tanto per non essere da meno degli altri. E Il mese dopo, quando signor Julien se ne fu andato, osò chiedere spiegazioni. L'incarico di Dalien se lo assunse Dédé Meunier. No, il signor Julien non portava il fratello maggiore al circo Medrano. Il signor Julien, dopo essere sceso, montava con una puttana della Rue Blondel alla quale era abituato e che onorava sempre di una sua visita dopo aver fatto i conti con il fratello. Era così. Lei era davvero una gran brava figliola e tutti trovavano simpatica la cosa. Elia aveva sorriso, scuotendo educatamente la testa, ma a onor del vero era rimasto scandalizzato. Non aveva mai completamente dimenticato il sorriso di connivenza del poliziotto che gli aveva spiegato come arrivare in Rue Blondel dopo aver decifrato il foglietto che gli aveva teso quel giovanotto straniero e muto la mattina che per la prima volta era andato a presentarsi dai fratelli Mercier. E non aveva neanche mai dimenticato la sua sorpresa, uscendo quello stesso giorno alle 6 di sera, nel ritrovare la stessa via così onesta la mattina, trasformata col buio in un mercato di bestiame umano. Ci aveva fatto l'abitudine, le conosceva a forza di vederle, le ragazze all'inizio della strada, e passando sorrideva loro, ma si era giurato di non far mai venire Sonia a prenderlo al lavoro, come lei da principio gli aveva proposto. Lui non aveva mai montato, tra virgolette. In compenso, una sera aveva avuto l'impressione di vedere Barsky in una conversazione galante un po' più avanti nella via e la cosa l'aveva sconvolto. Non ne aveva mai parlato ad anima viva in Rue de la Mar, tranne che a Stepan, naturalmente, ma Stepan lavorava in Rue d'Aboukir. I Mercier erano dunque, come suol dirsi, dei buoni padroni. Bonsangue non mente. Il nonno Fabien era stato comunardo e il padre André Dreyfusardo. Julien, il quale nel corso dei suoi viaggi non frequentava soltanto i bordelli, aveva imparato a conoscere il mondo e gli stranieri. Non era xenofobo e lui e Paul avevano contribuito ampiamente alla naturalizzazione congiunta di Gutmann, dei Gutmann e dei Roginski, pregando il loro cugino Martial Mercier, deputato socialista del Lot, di appoggiare la pratica. E poiché Paul Mercier era un buon padrone e aveva letto il giornale, quella mattina infilò la testa nel laboratorio e lanciò un «Tutto bene, Gutmann?», il che fece capire a Elia che il suo datore di lavoro aveva valutato a dovere l'importanza che poteva assumere per lui il fatto di cronaca del giorno. Un po' dopo, vedendo il compagno pensieroso, Dédé Meunier aveva voluto farlo sorridere. «Allora?» Così ci si uccide l'uno con l'altro, dai Popov. Ma a te che te ne frega, tu non sei più un Popov. Sei Francesoschi adesso, aveva detto a Elia, affibbiandogli qualche amichevole pacca sulle spalle. Da femmina prestige si parlava talmente e talmente forte che quando Stepan arrivò in Rue d'Aboukir non si sentiva più niente. Aveva lasciato Elia all'uscita del metrò Strasbourg-Saint-Denis. Non aveva fatto caso agli strilloni, non si era fermato a un'edicola come Elia. In poche parole, venne a sapere la notizia a spizzichi e a bocconi, a forza di fare domande agli 8 pellicciai che invece erano già arrivati alle virtuali conclusioni della requisitoria del futuro processo di Samuele Schwarzbard. In un primo momento, nel caos dei commenti e delle spiegazioni, Stepan prese in considerazione un'unica cosa. E non fu il nome di Samuel Schwarzbard che sentì appena. No, la cosa terrificante, pazzesca, inimmaginabile, e pur tuttavia da lui stesso immaginata qualche mese prima, era la materializzazione della presenza di Pietliura nella città di Parigi, di cui Zazà era stata indiscutibilmente l'innocente annunciatrice. Allora Gutmann l'aveva preso per pazzo e per calmarlo aveva inventato quella grottesca storia di Gulasch Löwenthal. Ma invece era chiaro, se la bambina aveva parlato è perché non c'è mai fumo senza arrosto. Stepan rimuginava tutte queste cose e dopo essersi fatto ripetere il nome dell'assassino, cominciò a chiedersi se il suddetto Schwarzbard non fosse quel cugino di Novak, un giovanotto bruno, dallo sguardo brillante che un giorno aveva visto uscire agitatissimo dall'Alverniat e correre senza apparente motivo per poi scomparire in Rue Henri Chevreau. Di lì a pensare che l'esecuzione di Pietro fosse stata concepita nella sua stessa via, che l'embrione di progetto fosse stato mormorato da Cocò e Lulu Novak, divulgato e ripetuto a Sami e Gino Nussbaum e raccolto infine da Zazà, non c'era che un passo che il cervello febbrile di Stepan varcò senza sforzo. E la grande paura dell'anno prima lo riprese, giacché se Pietro era potuto passare in Francia, gli altri, anche tutti gli altri erano lì e sarebbero usciti dall'ombra. Ecco quello che si diceva a Stepan infilandosi il camice da lavoro solo soletto nel suo angolino. Tagliatori e pellicciai erano sempre più rumorosi e rimandavano insolentemente l'istante in cui avrebbero dovuto impugnare le grosse forbici, le lame da rasoio, i martelletti e i minuscoli chiodi che li attendevano sulle grandi tavole del laboratorio. A un certo punto comparve il signor Jean. Gridò due volte «Silenzio!» in francese e nel silenzio, che si fece quasi subito, intimò in yiddish un secco «E ora al lavoro!» Poi risalì negli uffici che divideva con Roger Ziegler al piano di sopra e una mezz'ora dopo la signorina Anita, la segretaria di direzione di Femina Prestige, venne a mormorare all'orecchio di Stepan che il signor Jean chiedeva di lui. Stepan si alzò e la seguì. Era una cosa talmente insolita che tutto il laboratorio lo guardò uscire come fanno gli allievi di una classe quando il bidello viene a chiamare uno di loro perché il preside lo vuole. Era di pubblica notorietà che Stepan, benché fratello di Janek Roginski, detto signor Jean, non coltivava nessun rapporto familiare con i padroni. I due più anziani della ditta ricordavano benissimo l'arrivo di Stepan nel laboratorio, un giorno del febbraio o del marzo 1921. Roginski si era appena associato a Ziegler. Era ancora l'epoca in cui la stupenda testa biondo veneziano della signora Jean veniva a chinarsi sui conti alla fine del mese. Quella mattina la signorina Anita aveva spinto nel laboratorio un giovanotto che avvampava di rossore. Il signor Jean, che lo seguiva, aveva fatto un discorsetto, mezzo in francese, mezzo in yiddish, per dire che portava uno nuovo che si chiamava Roginski, ma che loro lo avrebbero chiamato Stepan, che sperava sarebbe stato un buon pellicciaio, ma che se non lo fosse stato si sarebbe fatto strigliare a dovere e, se era il caso, sbattere fuori. Stepan era un buon pellicciaio, non era stato sbattuto fuori, non lo chiamavano mai Roginski, non si era mai vista la signora Jean rivolgergli la parola e non si era neanche mai visto Stepan salire dal signor Jean. Quando Janek aveva fatto venire Stepan in Francia, era per ubbidire ai due motivi, un urgente bisogno di manodopera specializzata associato al tardivo mantenimento di una promessa fatta nel buio di un villaggio polacco a un fratellino di 11 anni che singhiozzava nel vederlo partire. Contro il parere della moglie, a dispetto delle collere della moglie, passando oltre i bronci della moglie, Janek aveva finito per mandare a Stepan la lettera di assunzione e i soldi del viaggio. Vedendo che non aveva vinto contro quelli che chiamava i polaccacci dello Shtetl, Nicole Roginski aveva messo le mani avanti. Aveva incaricato la signorina Anita di trovare un alloggio modesto, oltre che lontano da Neuilly-sur-Seine, dove i Roginski avevano appena traslocato. La signorina Anita si era rivolta alla provvidenza urbana e lei stessa aveva concluso l'affare dopo essere andata di persona a visitare l'alloggio di Rue de la Mare. Quando Janek aveva annunciato alla moglie la data dell'arrivo del fratello e l'aveva supplicata di andare con lui alla Gare de l'Est, lei aveva rifiutato e aveva pregato la signorina Anita di voler partecipare con il signor Jean a quello che aveva lepidamente definito il comitato di accoglienza. Quella mattina Janek era uscito dall'appartamento della Rue Charles Lafitte sbattendo la porta. Aveva lasciato una Nicola altera, sfavillante, profumata che spalmava su una tartina della marmellata d'arancia intonata alle trine della sua vestaglia di raso color salmone. Aveva ritrovato la signorina Anita che aveva già comprato i biglietti d'ingresso alla stazione e fu al fianco di quella modesta creatura, grigio vestita, con uno scialbo chignon annodato sulla nuca, che vide sbarcare da un vagone di terza un sorridente giovanotto con stivali e berretto di cuoio. Con una mano teneva un gran fagotto color granato, con l'altra la mano di una donna bambina di cui si vedeva a malapena il viso sotto un fazzoletto di cotone bianco, ma di cui si vedeva enormemente il ventre rigonfio sotto una gonna di lana nera. Gli stivali, il berretto, il fagotto rosso violaceo, il grosso ventre della ragazzina, la polvere e l'odore del treno sugli abiti, la gratitudine e la timorosa timidezza negli occhi di quegli estranei dicevano chiaramente che uscivano da un piccolo inferno quotidiano di cui Janek si rese conto immediatamente che per nessuna ragione al mondo voleva conoscere i particolari. E fu pensando: aveva ragione quella carogna, che abbracciò il fratello e la cognata, i quali, scambiando la signorina Anita per la loro propria cognata, l'avevano già stretta al cuore. Il malinteso fu presto dissipato. La signorina Anita era contentissima dell'equivoco, ma Janek spiegò che, siccome la moglie stava poco bene, la via del loro domicilio parigino gliel'avrebbe spiegata la sua segretaria. Li piantò davanti al metrò e prese un taxi per la Rue d'Aboukir. Erano passati gli anni. Olga non aveva mai incontrato Nicole. Nicole e Janek non avevano mai vista Zazà. Janek stava in piedi dietro la sua scrivania, sulla quale, tra campioni di tessuti, borderò e una cartella di cuoio, troneggiava una cornice d'argento, di cui Stepan vedeva solo il retro. La signorina Anita si richiuse la porta alle spalle e la voce urlante del signor Jean rivolse a Stepan una domanda della cui scarsa amabilità la signorina Anita si rese perfettamente conto, sebbene seguitasse a non capire l'Yiddish. Tradotta suonava così: «Chi diamine è questo idiota che viene a fare casino facendo fuori un altro vecchio idiota in piena Parigi?» Stepan non rispose. Janek riprese: «Non solo viene a fare casino in questo paese, ma per di più fa casino qui da me. E non è finita. Di pure i tuoi compagni del laboratorio, che hanno interesse a non dare nell'occhio, perché se per caso quel piccolo idiota di ucraino è entrato clandestinamente solo per fare fuori un altro idiota di ucraino, è entrato anche lui clandestinamente, da qui a un'ora la Rue d'Aboukir sarà piena di sbirri e non scherzeranno con i controlli. Neanch'io del resto, non siete mica tutti in regola giù di sotto.» Stepan stava per rispondergli che lui era francese da un anno, ma Janek non gliene lasciò il tempo. «Se ci sono dei gonzi come me che si sono arrabattati per dar da mangiare a gente che è stata tanto idiota da non sapersela cavare a casa sua, non è perché un fannullone di ucraino venga a rompere le uova nel paniere dandosi delle arie perché ha scovato un idiota di cosacco di cui nessuno si ricordava neanche più. Chiudi il becco, Janek! Chiudi il becco, t'ammazzo!» riuscì a sillabare Stepan prima di scoppiare in singhiozzi. Stupefatto, Janek contemplò il fratellino che piangeva e che a poco si mise a parlare. Tutte le immagini ora gli stavano tornando. Finalmente diceva quello che aveva nel cuore da tanto, tanto di quel tempo che risaliva quasi a quando aveva 11 anni. Era un discorso confuso che parlava tutti insieme dei genitori, della paura, dell'attesa nello shtetl, di prima di Pietlura e di durante Pietlura, della felicità con Olga, dell'incredibile felicità per la lettera arrivata da Parigi, del ventre di Olga grosso come il fagotto fatto in fretta prima di partire e di quell'incredibile infelicità all'arrivo e della signorina Anita e del primo metrò e del ventre di Olga che Sonia aveva toccato con tanta tenerezza quando si erano giurati tutti e quattro di non raccontare l'orrore ai figli ma di continuare a raccontarselo fra loro perché era impossibile dimenticare e quell'idiota di cosacco di cui lui, Janek, non ricordava il nome, che si chiamava Pietlura, martellava le sillabe che ripeté per 3 volte, Pietlura, Pietlura, poteva magari essere lo stesso che gli avrebbe tagliato le palle, a lui, Janek, se non se ne fosse andato in tempo dal paese. E bravo Schwarzbard, che li vendicava tutti, quelli giù del laboratorio, i nonni, la gente di Rue de la Mar, dove Janek non aveva mai voluto metter piede, dove Olga e Sonia si ammazzavano a cucire quelle merde di occhi falsi su quelle volpi argentate del cavolo, tanto che c'era ancora puzzo di pelliccia quando lui tornava a casa, e tutto per far fare i soldi al femmina Prestige, che non meritava che Schwarzbard li vendicasse, loro, né lui, Janek, né quella schifosa di sua moglie. Quella schifosa di sua moglie. «Quella schifosa di sua moglie!» gridava. Aveva fatto il giro della scrivania e additava Nicole che sorrideva nella sua cornice d'argento. Riprese il suo posto nel laboratorio. Stava meglio, stranamente non aveva più paura, ma aveva fretta di tornare a casa. Janek era rimasto per un pezzo immobile dopo che Stepan fu uscito sbattendo la porta. Poi aveva aperto la finestra e aveva contemplato a lungo la Rue d'Aboukir, allegra e soleggiata. Dopodiché aveva richiuso la finestra e si era seduto alla scrivania. Non aveva chiamato la signorina Anita, non aveva cercato di sapere se Roger Ziegler era arrivato. Teneva le mani posate sulla cartella orlata di cuoio nero nei cui angoli la signorina Anita infilava tutte le mattine un nuovo foglio rosa di una carta assorbente con il nome e l'indirizzo della ditta. Da qualche tempo sui Grand Boulevard si vedevano degli uomini sandwich che il giovedì distribuivano quelle carte assorbenti ai bambini. Era un'idea di Nicole. Una buona idea. Per un attimo considerò lo stupendo viso di sua moglie. «Quella schifosa!» aveva detto quello lì sbattendo la porta. Anche lui aveva sbattuto spesso la porta. Ma quella schifosa, quella carogna, lui l'amava e le doveva tutto. «Mio padre!» aveva lasciato San Pietroburgo perché Lucien Guitry l'aveva rapito, come si rapisce una ballerina. Questa era una delle frasi favorite di Nicole Judith Victoria Anna Zetkin, coniugata a Roginski. Era una frase che lei aveva già cominciato a sfoderare ai tempi del negozietto della Rue Pierre de Mur, nel 17° distretto, quando il padre le voltava la schiena e lei faceva pazientare la cliente in attesa di Janek, che nel retrobottega preparava per la prova la pelliccia di talpa o di pance di Petit Gris. Adesso che papà Zetkin era morto, che il negozio di Rue Pierre de Mur era stato venduto, che la ditta di Rue d'Aboukir era prospera e la società Roginski Pellicce Ziegler Confezioni fiorente, le occasioni di raccontare la straordinaria odissea del defunto Piotr Zetkin non le mancavano più. Lei le coglieva con molta grazia e astuzia nei momenti in cui la conversazione languiva, durante quelle cene d'affari che Ziegler e Roginski organizzavano per i compratori di provincia o quando Augustin Leblanc, maglierista di Troyes, finanziatore di Femina Prestige e papà di Lillian Ziegler, invitava le due giovani coppie da Lucas Carton. Ma da quell'anno 1926, con il nuovo appartamento di 5 stanze a Neuilly, la donna a tutto servizio con il grembiolino bianco, Nicole poteva ricevere in casa e, da ospite perfetta, si sentiva in dovere di animare le sue cene. Lo faceva con ricordi di famiglia, che diventavano sempre più grande Russia man mano che gli aiutanti di campo e le dame d'onore degli sventurati Romanov dilagavano a Parigi e invadevano le case. Dato che invadevano anche le case dei rivenditori di pellicce, argenteria e gioielli, Nicole Roginski aveva messo le mani su alcune occasioni di zibellini siberiani, anche in ottimo stato, e di oggetti d'arte firmati Fabergé. Gli zibellini venivano smontati in Rue d'Aboukir, i Fabergé venivano rimpatriati a Neuilly. Perciò, da poco tempo, i Roginski davano le loro cene intorno a una tavola rotonda coperta da una tovaglia di pizzo bianco con al centro un grosso uovo fatto di smalti color champagne che sembrava sospeso in aria, liscio e ermetico, tanto erano discreti 3 artigli in oro fino su cui poggiava. Ancor più distretto era il rubino cabochon dissimulato sotto la base dell'uovo e che ne comandava l'apertura in 4 spicchi uguali come un'arancia. Nicole aspettava che tutti fossero seduti e con lo stesso gesto abitudinario con cui si sfila il portatovagliolo premeva il rubino. Il grande uovo si apriva, allora, al ritmo lento di 3 note di clavicembalo e svelava il suo segreto, che consisteva in piccoli recipienti blu scuro del tutto anacronistici. Non contenevano che il sale, il pepe e vari tipi di senape. Tutti facevano «Oh!» di fronte all'uovo di Fabergé e Nicole prendeva modestamente atto dello stupore generale. «Oh, una vecchia cosa dei tempi di papà, ma le spezie sono un'idea mia», diceva. E con naturalezza cominciava a parlare di San Pietroburgo, di Lucien Guitry e di Rue de la Paix. Secondo Nicole Judith Victoria Anna, Piotr Zetkin era stato il miglior sarto pellicciaio di tutte le Russie. aveva talmente sedotto Lucien Guitry con il taglio delle sue lunghe pellicce da città e la linea dei suoi colletti di scena che al momento di lasciare per sempre il grande teatro di San Pietroburgo, il grande artista aveva sollecitato dallo zar l'insigne favore di portarsi in Francia colui che gli chiamava il Rodin della pelliccia. La discussione con il sovrano era stata accalorata e poiché nessuno a corte desiderava vedere involarsi l'uccello raro, la risposta alla supplica aveva tardato a venire. Allora Lucien Guitry, con una delle sue solite trovate ingegnose, si era presentato nottetempo al domicilio di Piotr, l'aveva tirato giù dal letto, vestito e letteralmente scaraventato sul sedile posteriore di una troica dove dormiva un bambino. Poi, dagli con la frusta, cocchiere, il tempo di percorrere al galoppo la prospettiva Nevsky, e erano nel treno che già si metteva in moto. Il bambino si era svegliato sulle ginocchia di Piotr, naturalmente era il piccolo Sasha. A Parigi si era diffusa in un baleno la voce che Lucien Guitry si era portato un genio dal suo lungo soggiorno nella città delle notti bianche. Si tramava per contendersi Piotr. Piotr, un po' stufo di vestire sempre lo stesso modello e stanco dei capricci del grande artista, aveva finito per rompere i ponti e aveva dato la sua preferenza al vecchio Charles-Frédéric Worth, che gli apriva i suoi prestigiosi saloni imbottiti di Rue de la Paix. A quel punto del racconto, Nicole Judith Victoria Anna Roginski snocciolava la lista dei nomi di tutte le grandi di questo mondo e del demi-monde sulle cui spalle il nostro Rodin aveva fatto cadere cascate di Cincillà, Visoni, Ermellini, Petit-Gris, Breischwanz, Leopardi, Astrakhan, Pantere, Londre, Opossum, Nutri e naturalmente Zibellini. Con questo si arrivava al 1894, data alla quale lei faceva risalire approssimativamente il momento in cui Piotr Zetkin si era messo in proprio nel palazzo dell'Ermellino. A partire da quel momento la cronologia cominciava a confondersi, la topografia di Parigi si faceva più imprecisa, non si era più in Rue de la Paix, ma non se ne era lontani, finché a un certo momento, mai datato, entrava in scena lei. Era nata. Si descriveva già grandicella nei salotti di prova di papà, della sua povera mamma che era così bella, diceva pochissime cose, ma sempre sfiorando con emozione un braccialetto d'oro a forma di serpente che portava arrotolato sopra il gomito e nella cui testa piatta e triangolare erano incastonati due piccoli occhi di smeraldo. Tutti capivano che se l'uovo veniva da papà, il braccialetto veniva dalla mamma. Spesso lei terminava con il divertente aneddoto che spiegava tre dei suoi nomi. Judith veniva censurato. Nicole, così francese, pensate a Molière, era stato scelto perché Piotr, sempre molto attaccato alla sua terra natale, aveva creduto di dare in tal modo alla figlia il femminile di Nicola. Victoria era un omaggio alla famiglia Worth. Anch'essa molto attaccata alla sua Albione natale e Anna, era di nuovo la steppa, le foreste di Betulle, Karenina e naturalmente e soprattutto la sua povera mamma, Anna, Aniuta, Aniuchka, come diceva papà, e come a volte mi diceva ancora quel grande slavo di mio marito. La trovata di quello slavo di marito era un ultimo tocco che insabbiava le vere origini di quel signor Jean, il cui accento, per i non intenditori, poteva evocare sia i fasti del palazzo d'inverno che le stradette fangose dello shtetl della periferia di Lublino. E per far intendere che ora la cena cominciava sul serio, cinguettava con «Duchka, se tu ci servissi del vino, al diavolo queste vecchie storie». L'uditorio, che di solito si componeva di due o tre rappresentanti di commercio di Elbeuf, di Lione e di Tourcoing, accompagnati dalle loro signore, si voltava ancora tutto abbagliato verso il grande slavo, tendendo i bicchieri di cristallo sfaccettato, e la cameriera entrava mentre tutti si aspettavano degli zigani. Janek contemplava il mirabile viso della moglie su quella foto di 10 anni prima. Era color seppia, ma lui vi poteva vedere il rame dei capelli folti, interminabili, che si spargevano sul guanciale bianco, gli occhi verdi che si chiudevano quando la bocca rossa pronunciava quelle parole yiddish che lui le insegnava, facendo l'amore la notte, sussurrando per non svegliare il padre, quando ancora si nascondevano. oppure la mattina, e di nuovo il pomeriggio, e poi ancora la notte. La bocca rossa che sospirava in una lingua che lei si rifiutava di parlare fuori dal letto. Dal letto, da quella camera un po' buia perché era al mezzanino e dove aleggiava ancora un odore di mele, di limoni e di alloro, talmente intrinseco ai muri di quello che era stato a lungo un negozio di primizie, prima di diventare il palazzo dell'ermellino, che si associava intimamente a quello delle pellicce e al vetivè che le conservava. E la grande risata del padre quando aveva capito, e la lezione con la sua bella voce bassa, la lezione ormai spoglia del vecchio puritanesimo ebreo abbandonato da tanto tempo, intrisa di una lussuria spigolata nelle leggende d'alcova del Secondo Impero e tuttavia ancora impregnata dei voluttuosi ricordi dell'adolescenza. La paiva ti do, io, prendila, è bella, bugiarda e carogna come la paiva. Vogliele bene, rendila gelosa, ma non la tradire mai. Ti voglio bene, Janek. Grazie, Janek. Pretenziosa com'è, sarebbe andata a farlo con il figlio del libraio della Avenue Niel. Per fortuna sei venuto tu. Grazie, mi hai salvato dai librai e tu ti sei salvato dalla noia. Ah, ci divertiremo tutti e tre, figliolo. La gioia, la felicità, le risa a tre durante tutti quegli anni di complicità con il padre, di passione con la figlia e di tirocinio della Francia, o più esattamente di un infimo pezzo di Francia, quieto, piccolo borghese e bottegaio. Bella carogna e bugiarda, aveva detto il vecchio con tenerezza e fierezza. Bella lo vedevano tutti. Carogna Janek l'aveva sentita una volta e in un modo che l'aveva agghiacciato quando aveva cacciato dal negozio un cugino di sua madre. La povera Anna, venuto direttamente dalla Gare de l'Est a Rue Pierre de Mur, come voleva l'usanza quando si era lasciato lo shtetl. Lei l'aveva cacciato in Yiddish, senza lasciargli il tempo di chiedere il bicchiere d'acqua che spetta all'emigrante. Era proprio agli inizi della loro storia d'amore. Lui non era ancora spuntato dal retrobottega che il cugino era già per strada. Quello che più l'aveva colpito in quel fugace incidente era stato il sentire la bella voce di Nicole proferire parole volgari in quella lingua che lei usava solo nel piacere e nella tenerezza. Era arrossita quando le aveva chiesto chi fosse quell'uomo che si allontanava. «Ah, un ladro di galline», aveva risposto in francese. «Bugiarda, questo sì, e tutti i giorni che Dio manda in terra, è fiera di esserlo. Bugie gratuite, infantili, inoffensive, ma sempre legate a qualcosa di attuale», che facevano scoppiare dal ridere papà Zetkin a tavola quando gliele propinava. Era l'epoca di «la baronessa de Rothschild è venuta a chiedere il prezzo del manicotto che è in vetrina». «La banda di Bonnois ha assaltato la confetteria della signorina Granval. L'ho rianimata io». «La signora Guinemer ci ordinerà un cappotto foderato di pelliccia per il figlio». «L'inquilina del terzo piano è la sorella di Matari». Menzogne, utili e proficue quando lui si arruolò nel reggimento dei volontari e lei lo veniva a trovare travestita da infermiera della Croce Rossa in una divisa che le aveva tagliato papà Zetkin. Papà Zetkin, morto troppo giovane per sentir raccontare lo sbalorditivo romanzo d'appendice che pretendeva di rintracciare le grandi ore di una vita che non era stata la sua, e ciò nonostante si rivelava come la sola bugia della sua paiva, che fosse stata e che era tuttora e che sarebbe stata redditizia, per la semplice ragione, appunto, che il protagonista non era più lì per prendere a schiaffi la figlia e farla tacere. Ci aveva pensato Janek, a un bel paio di ceffoni, la prima volta che aveva sorpreso la moglie nel suo ruolo di fine narratrice di leggende insostenibili. Poi, con sua grande meraviglia, aveva visto l'uditorio conquistato e i propri affari concretizzarsi. Michele Strogoff e Maria Bashkirtev, le troiche, le balalaiche, i Duchka piacevano. Piacevano tanto più che se la rivoluzione d'ottobre aveva scosso il mondo per 10 giorni, al tempo stesso essa favoriva in maniera singolare le mire di Nicole, confondendo tutte le piste genealogiche, geografiche e confessionali. Perciò non aveva preso a schiaffi la moglie e da allora la lasciava raccontare. Lui non l'ascoltava più, recitava la parte del grande slavo, ma in certi momenti però gli faceva male al cuore per il vecchio Zetkin, che non era mai stato Piotr, come lei non era Victoria, la paiva di quel padre che voleva la chiamassero Nicole e che lui chiamava sempre Judith. e Mayan. Gli faceva male al cuore perché la vera storia della vera evasione dalla Russia del giovane Samuel Zetkin, nascosto nei fagotti di pelli d'orso, alla fiera della pelliccia di San Pietroburgo, viaggiatore clandestino attraverso tante frontiere, prima di raggiungere finalmente Parigi, era 100 volte più bella del rapimento attribuito a Chantecler. Gli faceva male al cuore pensando al vecchio complice al quale era così affezionato e che odiava di vero cuore tutti i Nicola I, II, XIV, non meno degli Ivan il Terribile, dei Pietro il Grande e di tutte le grandi caterine di tutte le Russie che li avevano sempre asserviti, bastonati e spesso assassinati, lui e i suoi, ma che invece di parlarne preferiva insegnarle a cantare le Petits Pavés di Paul Delmé. Gli faceva male al cuore, ma lasciava dire, versava il vino sorridendo, guardava il grande uovo di Fabergé e il braccialetto serpente con i suoi occhi crudeli, dardeggianti sopra il gomito bianco e satinato della moglie. Li aveva pagati troppo cari a quel tizio, quell'Isidor, che veniva sempre a proporgli delle partite con il suo amico autista di taxi, un russo quello. Si presentavano quando i laboratori erano chiusi e quell'idiota di Anita se n'era già andata. S'era fatto gabbare per Fabergé, ma anche Fabergé rendeva. Poi gli zibellini trasformati in cappa da sera, foderata a mano di taffetà Mordoré, ordinata da Augustin Leblanc di nascosto alla figlia Liliane e al genero Roger Ziegler, e consegnata a una certa signorina Maddy Varga, artista lirica, al numero 24 di Rue Pergolese. Erano stati un bel rimborso. Barsky non aveva mai osato confessare a Stepan e a Olga che faceva degli affari con il signore e la signora Jean di femmina prestigio. Neanche Gromov. Era capitato per caso e grazie a Gromov un giorno che questi aveva caricato nel suo taxi una donna molto bella che l'accento del principe Andrei aveva reso loquace e che attraverso il vetro gli aveva confidato la sua simpatia per gli esiliati, il desiderio di dar loro una mano casomai desiderassero disfarsi di certi ricordi personali. Aveva depositato la donna a Neuilly in una via molto tranquilla a 2 passi dal Bois de Boulogne. Pagandogli la corsa, che aveva pudicamente arrotondato con una mancia regale, la giovane donna aveva mormorato: «Trasmetta l'informazione ai suoi amici, io abito qui, signora Jean, terzo piano a sinistra, palazzo di fronte, da Svidania», e si era infilata in un massiccio portone di quercia. Per 2 ore nel taxi c'era stato un tale profumo che i passeggeri successivi si erano rallegrati con l'autista. Gromov aveva segnato l'indirizzo e trasmesso l'informazione al suo amico Barsky, come aveva detto la signora. Barsky aveva immediatamente fiutato il pollo da spennare e in due, tra il mercato delle pulci di Clignancourt e le adiacenze della Salle Drouot, frequentata da Barsky, le uscite dei locali notturni, i grandi alberghi dove Gromov andava a caccia di clienti e i prati degli ippodromi che calpestavano insieme, avevano trovato rapidamente di che alimentare il caritatevole spirito russofilo della profumata sconosciuta di Neuilly-sur-Seine. Un samovar di rame, un anello di granato e una tabacchiera di lapislazzuli costituivano la prima partita, abbastanza modesta da evocare le ristrettezze in cui doveva trovarsi colui o colei che era ridotto a disfarsene. Si erano presentati a Neuilly, dove una camerierina spaurita aveva consigliato, attraverso la porta socchiusa, di rivolgersi in Rue d'Aboukir, dove lavorava il signore. Stavano per risalire nel taxi quando Gromov aveva scorto la misteriosa cliente che stava rincasando. Le presentò il signor Isidor, un amico che l'aveva aiutato nelle sue ricerche. La signora, molto impressionata dal fatto che Gromov non l'avesse dimenticata, provò l'anello di granato, si estasiò sui lapislazzuli della tabacchiera, soppesò il samovar e l'affare fu concluso senza mercanteggiare sul marciapiede della Rue Charles Lafitte. Gromov e Barsky avevano puntato su prezzi molto bassi, ritenendo che un primo affare, se lo si vuole far seguire da un secondo, deve essere negoziato in perdita. La signora, molto soddisfatta di averle abbindolate, li lasciò, consigliando di orientare le loro ricerche verso oggetti più consistenti, cosa che fecero fin da quella sera, andandosene a bere qualcosa in un cabaret di Montmartre in cui Gromov conosceva il portiere. Il giorno in cui misero le mani sulla grande palandrana di Zibellino fu la stessa signora Jean che, senza farli entrare dalla soglia dell'appartamento, consigliò che andassero a far vedere la cosa che Barschi spiegava sul pianerottolo sospirando: «Un pezzo da museo, un pezzo da museo, signora!» al marito, che se ne intendeva più di lei. Solo quando erano stati per le scale della Rue d'Aboukir davanti alla porta del primo piano, scoprendo l'insegna di femmina prestige, Barschi e Gromov si erano resi conto di essere dal fratello di Stepan. Erano tornati giù alla svelta, si erano piazzati nel caffè di fronte, avevano aspettato l'uscita dei lavoranti dal laboratorio, poi erano risaliti. Uscendo una mezz'ora più tardi, dopo aver concluso l'affare con quell'uomo duro sul cui bel viso si ritrovava però una traccia dei tratti simpatici e disarmati di Stepan, avevano provato una certa vergogna. Poi avevano bevuto generosamente e deciso di mantenere segrete le loro relazioni d'affari. Da 2 anni tornavano ogni tanto in Rue d'Aboukir, sempre nelle ore opportune. E nonostante i rimorsi che li coglievano certe sere, vedendo Olga e Sonia che si disperavano per non aver finito il lavoro prima del passaggio del triciclo che veniva a ritirare la maledetta pezza di cotone nero, stranamente provavano un certo sapido gusto a essere loro due il solo legame clandestino tra la Rue de la Mar e la Rue Charles Lafitte a Neuilly.